Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Anche gli avvocati lasciano l'Italia, lo sapevate? È questo il tema al centro della nostra puntata odierna. Parleremo di giovani avviati alla carriera forense che vedono nell'estero una via di uscita per esercitare la professione. C'è infatti chi, come riportano spesso i giornali, emigra in Spagna per ottenere un'abilitazione più rapida, a cui far seguire un'omologazione del titolo in Italia. E c'è chi invece sceglie proprio di lavorare all'estero aprendosi uno studio legale. Guardano più all'aspetto meritocratico della... Sì, diciamo, vali e quindi ti prendiamo. Sì, esattamente. Non ti conosciamo, però vogliamo scommettere su di te. Hai 30 anni, ma chi se ne frega? No, infatti, guardano molto la sostanza. Vittorio Muschietiello, 32 anni, ha lavorato presso importanti studi di avvocati e authority d'oltremanica prima di aprire un proprio studio di successo a Londra. Vittorio ci spiegherà come tariffe competitive e qualità, in una parola concorrenza, possano essere la chiave di volta anche in tempo di crisi. Della sua storia parleremo tra poco, ora spazio al notiziario. In apertura l'interessante ricerca condotta dalla società di selezione del personale Bachelor, secondo la quale un neolaureato su due ritiene necessario trasferirsi in via definitiva all'estero per mettere a frutto il proprio percorso formativo. Su un campione di 377 neolaureati che hanno discusso la tesi da meno di 4 anni, il 49,1% ha infatti risposto sì alla domanda sulla necessità di espatrio. L'87,8% di loro ha affermato che il merito viene maggiormente riconosciuto all'estero rispetto all'Italia. L'88,3% si trasferirebbe per ottenere pur under 40 posizioni lavorative superiori per livello e responsabilità, il 62,9% ritiene che un'esperienza all'estero porterebbe maggiori competenze rispetto a quelle acquisibili nel bel paese, mentre solo il 55,7% pensa di rientrare in Italia una volta conclusa l'esperienza fuori dai nostri confini. E sempre secondo la ricerca di Bachelor, la volontà maggiore di espatrio si registra tra i giovani laureatisi tra i 6 mesi fa e i 2 anni fa, ben il 61% di loro pensa infatti di emigrare. I più ottimisti sono invece i neolaureati di primissimo pelo, qui la percentuale scende al 33%. Meno lavoro e buste paga più leggere per i neolaureati è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani. La disoccupazione, evidenzia l'indagine, lievita sensibilmente non solo fra i laureati triennali, passando al 22%, ma anche per chi ha scelto una laurea forte come ingegneria. In calo risulta pure la stabilità dell'impiego e la consistenza delle buste paga. La contrazione oscilla dal 2% fra i laureati di primo livello al 3% tra i colleghi a ciclo unico, fino ad arrivare al 5% tra gli specialisti. A un anno dal raggiungimento del pezzo di carta, il guadagno medio supera i 1.050 euro netti mensili. Primo incontro nazionale fino a domani dei rappresentanti degli allievi delle 9 scuole superiori e dei collegi d'eccellenza di tutta Italia a Bologna. La 3 giorni inaugura la rete degli allievi delle scuole d'eccellenza. Tra i temi all'ordine del giorno, il problema della promozione del merito e della valorizzazione del talento in Italia. Si parla anche di fuga dei talenti. Secondo gli organizzatori, una grossa parte dei diplomati delle scuole di eccellenza è infatti costretta a svolgere il dottorato all'estero. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un laureato in ingegneria all'UNIF, la European Rail Industry of Bruxelles, per ricoprire il ruolo di Technical Affairs Manager, scadenza per il CV 31 marzo, info su unife.org. Un laureato in scienze forestali per il WWF in Romania, a Brasov o Bucarest, dove si occuperà di conservazione delle foreste e management, scadenza per il CV 22 marzo, info su panda.org. Dei project officers a Berlino per lavorare nel marketing alla Paul Consulting and Associates, info su paul-consulting.com. Infine un laureato in business management per il ruolo di Administrative Services Manager allo European Molecular Biology Laboratory di Grenoble. Scadenza 5 aprile, info su embl.de. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nel Regno Unito. Per la prima volta la nostra trasmissione sbarca a Londra. Nome: Vittorio. Cognome: Muschietiello. Età: 32. Città di origine: Bitonto, provincia di Bari. Studi: laurea in giurisprudenza, master universitario in diritto delle comunità europee. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? Inghilterra. Perché? per migliorare la conoscenza della lingua inglese e per specializzarmi nel diritto europeo e internazionale. Quale lavoro svolge attualmente? Socio dello studio VMS Solicitor di Londra. Sono iscritto all'albo dei Solicitor di Londra e degli avvocati in Italia. Tornerai? Torno spesso in Italia per lavoro, ma il mio centro d'affari è Londra, quindi la mia risposta è no, non tornerò. Mind the gap. Please leave the train. Please note that this train will not stop at the next station. Thank you for traveling on the Central Line. Lo riconoscete, questo è il sound, quello che gli inglesi definirebbero il background noise di un qualsiasi viaggio in metropolitana a Londra. Ovviamente l'inno britannico invece lo abbiamo aggiunto noi per introdurre la storia di oggi. Vittorio, in una email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it, hai detto: il motivo per cui sono andato via dall'Italia è principalmente dovuto alla voglia di internazionalizzazione del mio lavoro. L'Italia è un paese che non offre possibilità a giovani avvocati. Sono parole forti, sembra incredibile Vittorio, ma anche gli avvocati, soprattutto se giovani, espatriano. Perché? Penso che il motivo principale sia dovuto al tessuto economico in cui ciascun avvocato svolge la propria professione. Io svolgevo la mia attività professionale in Puglia, quindi diciamo l'economia e la cortina di tornasole ed anche del lavoro che svolge l'avvocato, quindi c'erano minime possibilità di, diciamo, specializzarsi nel diritto internazionale e quindi lavorare in quel campo lì. E allora Vittorio, iniziamo a parlare proprio del percorso che ti ha portato nel Regno Unito, cominciando dai tuoi studi. Io ho frequentato all'Università di Bari la facoltà di giurisprudenza e poi naturalmente ho fatto il classico periodo di praticantato in Italia presso uno studio legale di Bari, una cosiddetta boutique firm, dove principalmente svolgevo attività giudiziale e stragiudiziale nel campo civile e commerciale. Dopodiché la tua storia prende una svolta appunto esterofila, vai oltre Manica. Perché prendi questa decisione? Ma innanzitutto, come dicevo prima, è per imparare la lingua inglese, che mi ha sempre affascinato, e comunque anche perché avevo capito che la qualifica del master era fondamentale per il mio percorso lavorativo all'estero, diciamo. Ma c'è qualcosa che ti ha scoraggiato lavorando in Italia, facendo tirocinio in Italia? Ma ci sono tanti aspetti, diciamo, tanti aspetti negativi del periodo di praticantato in Italia. Uno è quello che il praticante non è tutelato da un punto di vista economico, quindi alla fine se non hai una famiglia alle spalle che ti sostiene economicamente non puoi effettivamente mantenerti facendo il periodo di pratica, visto che non viene pagato. Penso che questo sia uno dei motivi principali per cui uno è un po' svantaggiato rispetto ai colleghi europei o di altre nazioni. Quindi intorno alla metà di questo decennio, Vittorio, tu decidi appunto di lasciare l'Italia, vai in Inghilterra dove ti specializzi in legislazione delle comunità europee, la EC Law se non sbaglio, e vai alla University of Essex dove frequenti un Master of Law. E allora lì cosa scopri? Ti si apre un mondo? Sì, si apre il mondo, perché effettivamente l'università italiana, non, almeno quando ho frequentato io, non dava, diciamo, delle guide sulle possibilità che l'avvocato ha in Italia e all'estero. Quindi alla fine il master è stato anche un momento per capire com'è effettivamente il mondo legale sia in Italia che all'estero e fare una sorta di comparazione. Vittorio, il tuo percorso professionale successivo è veramente da raccontare, perché a mio parere in Italia molto difficilmente l'avresti fatto, perché tu a un certo punto sostieni l'esame di avvocato in Inghilterra, superi un concorso all'Office of Fair Trading, l'autorità garante della concorrenza inglese, vi lavori, poi passi a lavorare per uno studio newyorkese e poi torni a lavorare per la Competition Commission, che è il secondo grado dell'autorità garante della concorrenza. Come riesci a fare tutte queste tappe in così poco tempo? Sei giovanissimo, hai 32 anni, ricordiamolo. Ma innanzitutto diciamo che in Inghilterra c'è la regola della revolving door, cioè nel senso, anche se comunque qualsiasi, diciamo, situazione lavorativa ti porta ad avere una sicurezza economica e di permanenza, perché tutti i contratti che poi ho ricevuto erano a tempo indeterminato, comunque i cosiddetti recruiter ti allettano con proposte economiche più vantaggiose, quindi sei più portato a spostarti. E naturalmente anche l'avanzamento di carriera ti porta per forza maggiore a spostarti da un employer all'altro, quindi dall'autorità garante della concorrenza sono passato allo studio newyorkese e poi sono ritornato all'autorità garante della concorrenza. E diciamo che in poco tempo, perché in Inghilterra guardano più all'aspetto meritocratico della... Sì, diciamo, vali e quindi ti prendiamo. Sì. Certamente. Non ti conosciamo, però vogliamo scommettere su di te. Hai 30 anni, ma chi se ne frega? No, infatti, cioè, guardano molto la sostanza, non c'è pregiudizio etnico o anche il fatto stesso che uno ha la sua prima lingua non è l'inglese, non è assolutamente un ostacolo, anzi direi che la maggior parte dei dipendenti dell'autorità garante la concorrenza inglese è di nazionalità diversa da quella d'Inghilterra. Se andiamo a paragonare con quella dell'autorità garante della concorrenza italiana, scopriremo che il 99,9% dei dipendenti sono solo italiani. Questo fa la differenza. Vittorio, la tua carriera per il momento, diciamo, si conclude con un'ultima tappa, e spero non sarà l'ultima, ma comunque quella attuale, ed è l'apertura di un tuo studio con altri due soci. E il tuo studio è un caso molto interessante a raccontare, perché in un'epoca di crisi, con una politica molto particolare, ha avuto un successo inaspettato. Raccontaci. Diciamo che l'Inghilterra, come tanti altri paesi, è stata colpita dalla recessione economica. E quindi diciamo che il nostro obiettivo era proprio quello di aprire uno studio, benché di dimensioni ridotte rispetto ai blasonati studi inglesi e americani, ma l'offerta era appunto quella di minimizzare i costi fissi che naturalmente hanno gli studi legali qui in Inghilterra e garantire, diciamo, una qualità migliore rispetto agli standard inglesi. Naturalmente la nostra clientela è una clientela di società inglese che investono in Italia e società italiane che investono in Inghilterra, e avendo la doppia iscrizione all'albo sia a Londra che in Italia facilita, diciamo, una sorta di doppio passaggio che eventualmente la società inglese debba fare se vuole andare a investire in Italia. Deve seguire il primo percorso, che è quello di avere uno studio legale inglese e poi anche uno studio legale italiano per appoggiarsi. E se capisco bene, la vostra formula è molto semplice: giovani, avvocati giovani, qualità comunque e tariffe basse. Con questo avete battuto la crisi, è giusto? Sì. Sì, diciamo di sì, sì. Perché naturalmente nei periodi di recessione il cliente guarda molto alla questione economica anche dell'assistenza legale, quindi alla fine, diciamo, ci ha dato ragione questo tipo di politica, che naturalmente deve comunque rispettare il minimi standard di qualità, quindi anche se le tariffe non sono bassissime, ma sono basse rispetto alle tariffe degli studi inglesi, comunque mantengono lo standard qualitativo che deve avere comunque un'assistenza legale. Vittorio, in un flash, ma è difficile diventare avvocato oltre Manica? La selezione è durissima e penso questa è la differenza principale tra l'Italia e l'Inghilterra. In Italia, subito dopo la laurea, è praticamente impossibile non trovare uno studio che ti conceda la pratica. In Inghilterra è esattamente il contrario, cioè si deve studiare per un anno un percorso di studi chiamato LPC, che costa 12.000 sterline, si devono superare gli esami e solo dopo il superamento di questo anno e di questi esami si può accedere attraverso una selezione durissima al periodo di praticantato. Vittorio, in un flash, perché siamo in chiusura di questa prima parte, giovani talenti, ma la domanda di rito è sempre la stessa: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? In un flash è difficilissimo, non saprei da dove iniziare. L'Italia è il mio paese, un paese bellissimo, ma secondo me è una Ferrari che cammina con la retromarcia. E non sei il primo a dire questa cosa, già l'ospite della scorsa settimana ha fatto un paragone molto simile. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vittorio Muschietiello, giovane avvocato di stanza a Londra, laureatosi in legge a pieni voti all'Università di Bari. Vittorio è iscritto all'ordine dal 2004, dopo la pratica legale in Italia, è volato in Gran Bretagna per specializzarsi in diritto comunitario, ottenendo anche un Master of Law con lode. Da lì ha iniziato una carriera brillante che lo ha portato a lavorare per prestigiosi studi legali e per la Competition Commission britannica, un passaggio in multinazionale prima di aprire un proprio studio legale di successo. Avvocato Nicola Bianchi, coordinatore della Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi del Consiglio Nazionale Forense, che è l'organismo che rappresenta la categoria degli avvocati in Italia. Beh, uno come Vittorio, una carriera così rapida, l'avrebbe potuta fare così giovane anche in Italia? Probabilmente, devo dire, no. Al di là delle radici della sua scelta, che mi sembrano delle radici, delle motivazioni estremamente personali, esistenziali, direi, probabilmente no, ma ecco, per dei problemi e delle particolarità della società italiana, non della sola professione forense italiana, laddove ha parlato della meritocrazia che c'è, come è noto, d'altra parte nei paesi anglosassoni e da noi diciamo un po' meno, per essere generosi. E perché il riferimento anche a numeri è diversissimo, nel senso che sappiamo bene quanti sono gli avvocati italiani e quindi qual è il regime in cui il giovane avvocato può trovarsi. I numeri sono completamente diversi. Così pure, devo dire la verità, al di là, poi magari ne parleremo, delle tariffe, dell'obbligatorietà, della non obbligatorietà, dobbiamo tener conto che i margini sono molto ampi. L'Inghilterra è nota per essere la giustizia più cara, non so se del mondo, ma d'Europa senz'altro, quindi ha margini, come dire, di riduzione che in casa nostra indubbiamente non ci sono. Ecco. Vittorio, come sai c'è anche tutta una discussione aperta sulla riforma della professione forense in Italia, una riforma che riguarda anche i giovani, però vedendo il modello che tu stai applicando, che hai vissuto in Gran Bretagna, vedendo l'Italia, c'è qualcosa che vorresti chiedere all'avvocato Bianchi? No, guardi, io sono, diciamo, sto seguendo un po' la riforma o comunque le proposte di riforma della professione forense e sono d'accordo con il Consiglio Nazionale Forense quando dice che qualsiasi iniziativa incentrata sulla concezione imprenditoriale della professione forense è sbagliatissima, perché si vuole, diciamo, in un certo senso distruggere l'indipendenza dell'avvocato. Si deve, secondo me, creare una selezione a monte e secondo me questo non viene assolutamente fatto in Italia. Si deve rafforzare la scuola forense, l'attività della scuola forense, ci deve essere l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale, ci deve essere, secondo me, l'obbligo del pagamento del praticante, perché quella è senza dubbio una selezione naturale del professionista. Abbiamo 230.000 avvocati in Italia, è un numero impossibile da sostenere economicamente per qualsiasi tipo di avvocato. Avvocato Bianchi, cosa risponde? No, rispondo che siamo d'accordo sia sul mantenere la nostra tradizione continentale, insomma, del modo di fare avvocato. Vorrei segnalare però che l'assicurazione obbligatoria è una delle cose caratteristica della proposta di riforma che noi abbiamo fatto. C'è una valorizzazione estrema delle scuole forensi che diventano un percorso obbligatorio, congiunto anche alla pratica tradizionale, per l'accesso. C'è, o meglio c'era nella nostra proposta, la equa indennità per il praticante, ma poi devo dire però che c'era? Quindi vuol dire che questa proposta di pagare i tirocinanti praticanti è scomparsa? Era una proposta dell'avvocatura italiana, è stata eliminata al primo passaggio parlamentare, che è stato quello della Commissione Giustizia del Senato, deve esserci ancora l'Aula e la Camera, quindi si può, come dire, rimediare, però è stata tolta sul presupposto che potesse addirittura essere un disincentivo, in senso che gli studi non prenderebbero più i praticanti. Per dire, c'è appunto in tutte le riforme un'idea appunto di rendere l'accesso selettivo, ma attenzione, in termini meritocratici, ecco, non in altri termini, tuttavia è uno dei punti sui quali anche qui la politica, insomma, ha avuto qualche cosa da dire. Avvocato, ecco, purtroppo il tempo corre, però c'è una cosa che le volevo chiedere e mi rifaccio a quello che ha detto Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, non più tardi di novembre, sulla riforma. Dice: una riforma che protegge i vecchi e penalizza i giovani, come dire, una riforma che alla fine chiede sacrifici solo ai giovani avvocati. È così che il paese può andare avanti? No, noi riteniamo che sia una lettura, devo dire la verità, sbagliata. Di Catricalà, il presidente dell'Antitrust, non mia. Sì, dai, col presidente dell'Antitrust noi abbiamo tutta una serie di interlocuzioni non sempre positive. Noi crediamo che sia una prospettazione assolutamente errata. Certo che se dobbiamo continuare a imbarcare 20.000 avvocati, perlomeno sulla carta, all'anno, e dobbiamo far fare la selezione ad un mercato cosiddetto, che è un mercato che poi in realtà sconta tutte le brutture, voglio dire, che ci sono nella società italiana, noi avremo una massa di disoccupati, ecco. Grazie all'avvocato Nicola Bianchi del Consiglio Nazionale Forense. Un'ultima domanda invece per Vittorio Muschitiello, la domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Penso che si debba tenere in considerazione la globalizzazione, che è una brutta bestia, e bisogna imparare l'inglese per combattere la globalizzazione, per combattere, diciamo, la concorrenza degli avvocati di altri paesi europei. Bisogna specializzarsi, bisogna distinguersi dalla massa, perché 230.000 avvocati sono, come detto prima, sono troppi, e quindi questo, diciamo, è il consiglio che io possa dare: prendere il titolo di avvocato e poi andare all'estero e specializzarsi. Questo è il mio consiglio. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un sito che in pochi anni ha raggruppato diverse centinaia di iscritti tra gli espatriati d'Italia. Il nome è tutto un programma: Cervelli in Fuga. Filippo Addari, cofondatore del sito, ci spiega come nacque 3 anni fa l'idea. Nel 2007 uscirono molti articoli nella stampa internazionale che criticavano l'Italia per un verso o per un altro. Io e un piccolo gruppo di amici, essenzialmente basati qui a Londra, eravamo abbastanza infastiditi, uno perché siamo italiani e eravamo ancora stufi di essere sempre presi in giro, criticati come italiani, due perché pensiamo che l'Italia non sia soltanto da criticare, ma ci siano un sacco di belle cose, e quindi decidemmo di creare essenzialmente un luogo per noi e per altri italiani che vivono all'estero per parlare dell'Italia in un modo diverso e per collegarci gli uni con gli altri attraverso l'Italia. Questo era il 2007. Dopo pochi mesi persone cominciarono a collegarsi, a leggere, a commentare e a proporre idee. Quindi, senza alcuna pretesa, il sito è partito come luogo di discussione alternativa, positiva, tra gli italiani. Quanti iscritti avete? Registrati sono qualche centinaia, ma il grosso viene da persone che non sono registrate e che leggono il sito. Quindi la maggior parte non sono iscritti, ma leggono il sito, e c'è un enorme gruppo che lo fa dall'Italia. Parliamo del profilo degli utenti. Che tipo di storie avete raccolto, avete potuto leggere? Le storie sono sempre più o meno le stesse, persone più o meno brillanti che hanno lasciato l'Italia perché non trovavano delle opportunità di lavoro, quindi sono più o meno tutti professionisti, più o meno tutti riusciti nel loro campo. I campi sono molto diversi perché c'è l'università, c'è la finanza, ma io ad esempio opero nel mondo delle ONG, Erika è nello sport. Quindi ci sono tutti i campi professionali. Quello che ci accomuna è essenzialmente il fatto che siamo dovuti partire per trovare successo nella nostra professione, per realizzare le nostre passioni. Che tipo di servizi offrite anche all'interno di Cervelli in Fuga? Avete varie rubriche, insomma, vari modi di interconnettere i giovani, o non solo, che sono espatriati. Ok, questa è la cosa interessante, perché il sito è nato come luogo di scambio di informazione e di discussione. In realtà oggi quello che è diventato il sito è più una community di italiani all'estero e in Italia che parlano della vita degli italiani nel mondo. Per molti italiani dall'Italia il sito serve per chiedere informazioni agli italiani all'estero rispetto a come possono lasciare l'Italia e trovare un lavoro fuori, in relazione a dove poi vogliono andare. E per maggiori informazioni potete cliccare su www.cervellinfuga.com. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. Oggi vi leggiamo 3 lettere arrivate negli ultimi giorni a giovanitalenti@radio24.it. Andrea: ho una laurea e un dottorato in fisica, svolgo un lavoro che poco o nulla ha a che fare e vedere con la ricerca, e anzi noto con rammarico che si investe sempre meno in questo settore. Questo è un grandissimo problema, non tanto per noi ormai rassegnati a questa situazione, ma per le generazioni future che si troveranno a dover emigrare per trovare un lavoro che consenta loro di essere contenti e realizzati. Aggiunge Andrea, auguro a mia figlia di poter frequentare l'università in un paese straniero e di trovare lì un lavoro degno di tale nome. I nostri figli si troveranno a reggere il peso dell'intera economia di un paese con lavori precari, sottopagati, senza avere alle spalle genitori in grado di sopperire alle loro necessità, come invece sono stati i nostri. Eupremio, chi scrive è un docente d'inglese in pensione. Ho un figlio di 36 anni, laureato in economia e commercio, che è dovuto andare via dalla Puglia per trovare un posto in banca a Milano. Mi chiedo fino a che punto sia giusto che un laureato meridionale debba lasciare la propria terra e il suo background per sempre. Nel nostro paese, dice Eupremio, vuoi per il mancato ricambio generazionale e politico, vuoi per la consolidata mentalità delle raccomandazioni, chi vale o vuole farsi valere non trova spazio o viene emarginato. E infine Vito, giovani talenti, rientrate in Italia perché abbiamo bisogno di voi. Contribuiamo a riunire di nuovo il paese dopo 150 anni, questa volta senza raccomandazioni o peggio, clientelismi e corruzione. Tornate qui, è rimasto un vuoto enorme che dobbiamo colmare urgentemente. Questo l'appello di Vito. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Esistono secondo voi barriere corporative in Italia? Quanto queste barriere, riducendo la concorrenza, impediscono di fatto l'accesso alle diverse professioni da parte dei giovani? E quanto, una volta entrati nel club, finiscono comunque col limitarne il raggio d'azione di indipendenza e di crescita professionale? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.